Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura oggi parliamo di pallet, giusto per chi non lo avesse capito, mi riferisco a quelle piattaforme, in genere di legno, ma possono essere anche di plastica o di metallo, sulle quali le merci vengono caricate e movimentate attraverso i mezzi meccanici come i muletti. Detto in italiano parliamo di bancali, pancali, piattaforme di carico, insomma la traduzione tra tecnicismo ed espressioni gergali può variare, ma alla fine si parla sempre della stessa cosa. Lì per lì potrebbe sembrare un argomento di scarso interesse, invece non è affatto così, perché esiste una vera e propria emergenza pallet, un'emergenza magari mediaticamente non percepita come tale, ma in realtà per nulla irrilevante. Mi spiego meglio. Per un meccanismo che verrà approfondito nell'intervista che segue, c'è un mercato nero dei pallet sul quale è fiorito un business illegale. Parliamo di un giro di denaro vorticoso sul quale, ed è la dimostrazione della rilevanza della questione, da tempo si sono allungati i tentacoli della criminalità organizzata, riciclaggio, ricatti, fatturazioni false. La Guardia di Finanza ha compiuto una serie di controlli tra aziende che fabbricano e riparano bancali, scoprendo un giro di evasione fiscale di quasi 30 milioni. Le verifiche delle fiamme gialle hanno riguardato 144 ditte, quindi solo una piccola parte di quelle che svolgono questo tipo di attività. Ma c'è un dato ancor più significativo. Secondo l'ultimo rapporto Ecomafia 2016 di Lega Ambiente, in Italia il giro illegale di pallet vale circa 720 milioni di euro. E si tratta di una stima molto orientativa, mancando chiaramente riscontri oggettivi. Ma sentiamo quali sono i passaggi che alimentano questo valzer di pallet e di quattrini. Abbiamo intervistato Massimo Bagnoli, presidente di FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, in prima linea contro questo fenomeno criminale. Ascoltiamo. Succede che il committente che affida della merce posizionata sui pallet per la consegna ne pretende poi il ritorno di questi pallet, perché comunque sono pallet di interscambio. Cosa succede? Che l'autista va a consegnare e chi deve ricevere questa merce sa che sotto ha del valore che è facilmente liquido, e non glieli rende, e gli rende un buono pallet che non ha nessun tipo di valore fiscale, o fa di tutto per farlo desistere. Il committente, nel momento del pagare la fattura, dice: mi devi rendere i pallet, poveretto, non glieli può rendere, e glieli fattura. Quello che c'è di bello, che il costo viene attribuito di volta in volta, quindi non è che c'è un valore di mercato. Il committente decide lui in quel momento, quando deve pagare la fattura dell'autotrasportatore, la somma che deve addebitare per ogni pallet. Uno scandalo. E quindi nel frattempo i pallet finiscono in mano a chi non dovrebbe averli e alimentano questo mercato parallelo. Funziona così in sostanza? Questi che acquistano i pallet dagli autisti infedeli o dalle cooperative di scarico o da chi ha possesso di questi pallet, non proprio da un possesso, glieli paga in nero. Quindi il mercato dice che con 5,50 euro al legno glieli danno e glieli mettono in mano, senza fattura, senza ricevuta, senza nulla. Questi pallet vengono sottratti dal mercato regolare. Cosa succede? Che poi uno li deve andare a comprare. Dove vanno? Nelle stesse botteghe, che immediatamente emettono fattura per un costo leggermente superiore, e il denaro viene pulito d'incanto. Quindi c'è la criminalità organizzata? Soprattutto, sono loro, hanno, oltre che avere la criminalità organizzata, hanno anche organizzato questo mercato parallelo, che è devastante. Probabilmente andando a controllare queste botteghe di compro-vendo pallet si troverebbero, e tra l'altro si troverebbero, ma ogni volta che la Guardia di Finanza fa un controllo vengono fuori evasioni milionarie, elusioni milionarie. Quindi è anche per l'erario, non solo per l'autotrasporto, sono perdite importanti. Cosa si può fare e cosa si deve fare? La prima cosa, i controlli, applicare la legge. Purtroppo il controllo è demandato per un articolo del testo unico datatissimo, è demandato ai comuni. I comuni non sanno cosa devono fare. Se queste botteghe chiudessero, ecco che il problema dei pallet sparisce. Come avevamo anticipato lunedì scorso, la Commissione europea sta per varare il pacchetto stradale, cioè un insieme di norme e di indirizzi ai quali i paesi dell'Unione europea dovranno fare riferimento in materia di trasporti su strada. Un passaggio cruciale per il futuro dell'autotrasporto, dopo che il presente è pesantemente condizionato da un mercato insano per effetto della concorrenza sleale dei vettori dell'est. Quindi parliamo di dumping sociale, cabotaggio abusivo, elusione delle norme in termini di distacco internazionale di lavoratori. Ma se le aspettative erano rivolte proprio ad una serie di misure di contrasto a questi squilibri, le avvisaglie non paiono corrispondere alle istanze degli autotrasportatori della vecchia Europa. Per dirla in poche parole, qualcosa cambierà, ma non nelle forme e nei termini auspicati. Di qui la mobilitazione dei sindacati di categoria. A Bruxelles si è svolta una manifestazione promossa da ETF, la Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti. Una delegazione è stata ricevuta dalla commissaria ai trasporti Violetta Bulc, il segretario generale di ETF Roberto Parrillo. Abbiamo fatto questa manifestazione, questa azione, perché riteniamo che la Commissione sta preparando delle misure che sono sbagliate. La prima, per esempio, la più importante per noi è che c'è tutta la problematica del distacco e c'è una proposta di ritirare il trasporto dalla direttiva distacco e di fare una direttiva o delle misure speciali per il trasporto su strada. E quello che circola adesso è che, per esempio, per 5, 7 o 9 giorni qualsiasi impresa che venisse di qualsiasi paese può fare qualsiasi operazione di trasporto senza dover assolutamente rispettare le regole del paese. Dunque vuol dire che se un trasporto della Lituania viene in Italia durante 5, 7 o 9 giorni può fare qualsiasi operazione in Italia con lo stipendio della Lituania. Se noi lasciamo passare questa cosa, vuol dire che le imprese si adegueranno alla situazione e cosa faranno? Faranno tutti i 5, 7 o 9 giorni, usciranno dall'Italia per 2 giorni o per 2 ore, ritorneranno in Italia e ricominceranno. Cosa vuol dire? Vuol dire che si legalizza l'illegale. Un altro punto importante riguarda il lavoro autonomo. Qui la Commissione dice, ecco, il lavoro autonomo bisogna uscirlo dalla direttiva sul tempo di lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che si lascia fare, come dire, qualsiasi cosa in qualsiasi paese a dei lavoratori che non sono in realtà dei lavori autonomi, sono dei lavoratori che sono dei falsi autonomi. Torniamo sul corridoio Reno-Alpi, quindi sull'asse tra i porti del nord Europa e quelli liguri, un corridoio lungo il quale da dicembre in Svizzera il tunnel ferroviario del Gottardo, il più lungo al mondo, è aperto al traffico regolare. Nel 2021, sempre in Svizzera, sarà inaugurato il tunnel di Monteceneri e l'anno successivo, questa volta in Italia, il corridoio sarà completato con l'apertura del terzo valico dei Giovi, tra la pianura padana e la Liguria. Nel nuovo incontro bilaterale Italia-Svizzera svoltosi nei giorni scorsi a Roma, il ministro Graziano Del Rio ha confermato il cronoprogramma, sottolineando che è stato appena consegnato il quarto lotto dell'opera da 1,6 miliardi di euro. Per il nostro sistema logistico si tratta di una sfida decisiva per intercettare le rotte mondiali delle merci. Eventuali ulteriori ritardi avrebbero infatti conseguenze molto pesanti a nostro sfavore e a beneficio degli scali di Rotterdam e di Anversa. Dal corridoio Reno-Alpi all'autostrada del Brennero, la A22, un altro collegamento strategico per le merci in viaggio tra l'Italia e il cuore dell'Europa. Ogni anno, lo ricordiamo, al valico del Brennero transitano più di 2 milioni di tir. E su questa autostrada per i mezzi pesanti è in vigore il divieto di sorpasso nelle ore diurne. Al vaglio l'ipotesi di estendere anche di notte questo divieto. Sentiamo la posizione di Claudio Comini, segretario regionale di Confartigianato Trasporti. Visto l'esito, non vedrei delle cose. Si potrebbe anche fare, volendo. Si potrebbe anche dire, va bene, perché tanto gli autocarri sono limitati a 90 all'ora. Qualche autocarro, pochissimi, che vanno a 70 all'ora, 80 all'ora, usando il buon senso si possono superare, l'autocarro rallenta. Nei giorni scorsi una delegazione delle associazioni ha incontrato i vertici di Autobrennero. Uno dei punti affrontati ha riguardato l'affollamento delle aree di servizio. Ancora Comini. Oggi abbiamo un 75-80% di autocarri stranieri che sostano sempre sulle piazzole di sosta. Io direi va bene la sosta breve, ma per le soste infrasettimanali sicuramente o far pagare la sosta o studiarsi qualcos'altro, perché abbiamo le aree intasate di veicoli stranieri.